con Massimiliano Frateschi, autore e attore dello spettacolo La Gabbia, al Brancaccino a Roma dal 2 al 12 maggio 2019. Massimiliano, ben trovato. Ciao, ben trovati a voi. Ci racconti di questo lavoro? Assolutamente. È un testo di teatro contemporaneo, scritto tutto in una notte e poi revisionato da un paio di persone che per me erano dei talenti della scrittura del teatro contemporaneo italiano, che sono Edoardo Erba e Gian Pietro Rappa, che mi hanno dato una mano a capire il mio primo testo d'autore. In realtà è un testo molto istintivo, che è nato solo per l'esigenza di raccontare molti dei miei pensieri al mondo, e poi è uscito sotto forma di dialogo con un amico immaginario. E quindi poteva prendere poi solamente la forma teatrale, non cinematografica, non romanzistica. Almeno io l'ho visto per quello. È un testo che poi, insomma, abbiamo proposto a Massimiliano Vado e a Federico Tolardo, che era un attore che io già conoscevo, un bravissimo attore che ha fatto il centro sperimentale. Quindi da lì abbiamo deciso di mettere su questa macchina La Gabbia. Io vengo dalle installazioni, prima ancora del teatro. Quindi abbiamo deciso anche di creare intorno una scenografia che fosse più un'installazione che non solamente uno sfondo, uno fondale. E quindi ci siamo affidati a questi produttori di cinema, perché sapevo che loro avevano la possibilità di trovare degli sponsor un pochino più importanti rispetto agli sponsor che di solito si trovano al teatro, e uno studio scenotecnico di scenografia per appunto poter costruire quella che poi sarebbe stata la casa della gabbia, no? Di questi due personaggi. E quindi abbiamo lavorato molto sull'idea, e l'idea era quella di un cubo sospeso nel vuoto, perché questa gabbia, come sai se hai letto qualcosa o se hai visto lo spettacolo, è metaforica anche, cioè è una gabbia che mentre i due personaggi la vivono in una cella di isolamento, il resto del pubblico la vive come una sua percezione mentale, è come un riflesso del suo inconscio, dove viene raccontato che nei difetti, nel giudizio che ognuno di noi si fa a se stesso, rimane incastrato, rimane in gabbia, e che quando ti accorgi e sbatti contro queste pareti e sei ingabbiato, cerchi di scappare in tutte le maniere possibili e immaginabili, ma poi alla fine, siccome sei tu la tua stessa gabbia, è molto difficile uscirne, e quindi l'unica cosa che puoi fare è fartela piacere. La scintilla iniziale da dove era partita per quest'idea? Ma guarda, veramente non ti posso dire, stavo dormendo, mi sono svegliato, forse avrò fatto un sogno o un incubo, non lo so, però mi sono svegliato e nell'insonnia io riscrivo spesso, scrivo poesie, scrivo altri tipi di testi, ho scritto delle sceneggiature, e quindi a un certo punto mi sono seduto e ho iniziato a scrivere questo dialogo, come d'abitudine, no? Sono una di quelle persone che si alza la notte e non fuma la sigaretta, ma si alza e scrive. E quindi è uscito così, era un flusso anche di coscienza, forse volendo, dove forse arrabbiato con me stesso probabilmente, non so, forse in un qualche modo avevo bisogno di liberare questi pensieri. Nella costruzione di questa gabbia, l'interiorità e la società hanno uguale peso? Sono due pesi molto diversi, perché sono due forze che vengono da due direzioni completamente diverse. Sono entrambi pressanti, questo sicuramente, perché diciamo che c'è la nostra parte lucida, quindi in quella mentale che possiamo definire esteriore, c'è la pressione della società, mentre nella nostra mentalità interiore c'è la pressione del nostro inconscio. Queste due pressioni fanno sì che a volte si crea un disequilibrio tra quello che noi percepiamo dall'esterno e quello che noi viviamo dall'interno, e quindi il nostro inconscio e la nostra mente prendono degli sbandamenti, e lì allora secondo me entra la follia, che per follia non si intende quella follia di estremo livello per cui uno deve essere sotto farmaco o in una clinica, parlo di quella follia che è dentro tutti noi e che comunque in qualche modo ci destabilizza e fuoriesce quando siamo particolarmente arrabbiati, oppure quando siamo depressi, oppure quando siamo particolarmente innamorati. Questo funziona anche per i sentimenti positivi, però comunque c'è qualcosa che sposta la linea da un baricentro di equilibrio. E sicuramente sono le due pressioni più grandi che abbiamo, la pressione del giudizio di noi stessi, la pressione del giudizio dell'esterno, cioè qualunque passo tu fai, il tuo modo di parlare, il tuo modo di camminare è una tua maschera, una tua protezione verso il giudizio giudizio degli altri, cioè è il tuo modo di voler sembrare al mondo, la tua maschera e la tua azione esteriore verso il mondo, no? E questo però poi quando torni a casa invece c'è un altro peso ancora più forte che quello che succede quando ti guardi allo specchio, quindi il peso che tu dai a te stesso, il giudizio che tu hai di te, come ti senti alla fine della giornata. Quali possono essere le vie d'uscita? Da che cosa, perdonami? Dalla gabbia. Quale gabbia? Ecco perché ti faccio questa domanda. Perché la gabbia era una provocazione la mia, perché la gabbia è uno status, non è una cosa fisica dal quale puoi uscire. La gabbia è qualcosa che ti si ripresenta ogni volta che. Infatti per questo il testo rimane aperto e ora non voglio svelare il finale per quelli che lo verranno a vedere, però quello che succede alla fine è molto rappresentativo di questa cosa che stiamo dicendo, cioè dell'apertura verso un concetto e non solo verso un oggetto, che significa che si può uscire dalla gabbia, ma in che modo? E poi quando si esce, si rientra, ma poi io ci sono uscito veramente da questa gabbia? Queste sono le domande che a me piace lasciare alla fine. Okay. Non mi va di risponderti perché io per primo probabilmente non ho queste risposte. È un testo di provocazione che serve anche a lasciare queste domande a me per primo e tutti quelli che la vedono. Anzi, mi piace sentire le risposte degli altri, forse per capire anche la mia risoluzione, no? E allora ricordiamo l'appuntamento a Roma, al Teatro Brancaccino. Fino al 12 maggio 2019 lo spettacolo è La Gabbia di e con Massimiliano Frateschi insieme a Federico Tolardo. Massimiliano, un abbraccio. Massimiliano, vado. Giusto. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille, a presto. Ciao, grazie mille.